pensavo fosse normale. Poi ti ho vista fermare il tempo come un fulmine dentro il mio petto. Vestita di luce, ballavi da sola. Occhi che parlano senza parola. Un passo poi due, mi avvicino e il mondo si ferma. Destino divino. E il DJ che suona sembra farlo per noi. Tu che ridi e mi prendi la mano e mi porti via con te. Sotto le stelle il cuore impazzisce, le mani son quelle che mi guidano dentro al tuo ritmo. Tu sei magia, sei l'ultimo mito. Oh Elisa, notte infinita, ci perdiamo ma è tutta la vita che aspetto una come te. Stasera resta con me. Resta.